Ciao, sono Adamo. Anch'io ascolto Opencast Alpha. Opencast Alpha, la puntata d'oro, la puntata del 50esimo. Siamo arrivati alla puntata numero 50. Nessuno ci credeva, neanche noi, ma invece siamo qui. Con noi stasera si parlerà di telefoni che girano sistemi operativi liberi, in particolare Linux. Abbiamo in studio virtuale, siamo chiaramente in distanziamento sociale, in studio virtuale abbiamo Elena e Diego. Ciao! Buonasera. E abbiamo anche Alberto. Buonasera a tutti. E abbiamo anche Enrico, che non so se riuscirà a partecipare, ma ci sta, diciamo, è un po' in regia, diciamo così. Quindi la puntata di stasera sarà monotematica e parleremo di telefoni che girano sistemi operativi liberi. Quindi parleremo di telefoni come il Pinephone e il Librem 5. Alcuni di noi hanno già avuto modo di mettere mano su il Pinephone in particolare, per cui parleremo anche di esperienze dal vero. Che cosa ci piace, che cosa si può migliorare, che cosa funziona e che cosa ancora non funziona. Abbiamo una scaletta abbastanza piena, io comincerei a dare la parola a Elena, che ci racconterà un po' la storia del Pinophone. Non se l'aspettava, ma gliela butto lì. Grazie. Allora, dunque, il Pinephone è uno dei tanti progetti di Pine64. Sono partiti producendo soprattutto single board computer su cui ovviamente gira Linux, e adesso si stanno allargando su altri dispositivi di vario tipo, sempre dispositivi di hardware libero e su cui giri software libero. In particolare hanno prodotto un tablet che interessa particolarmente a noi, questo smartphone, che è uno smartphone di fascia medio-bassa come prezzo, contrapposto al Librem 5, che invece ha uno smartphone di fascia decisamente più alta. Però è uno smartphone che permette a molte persone, infatti tutti noi presenti abbiamo un Pinephone, di mettere le mani finalmente su un telefono su cui giri una distribuzione Linux e non Android, dedicata al mobile, cosa che in fondo non si vedeva dai tempi dell'OpenMoco. OpenMoco era uno dei primissimi smartphone mai esistiti, uscito prima dell'iPhone, per dire, su cui anche lì girava Linux, ed era stato un progetto molto interessante, ma un po' prematuro, perché nel momento in cui è uscito l'OpenMoco tutti hanno detto: ma figuriamoci, nessuno accetterà mai un cellulare in cui la batteria dura soltanto un giorno. Perché allora, diciamo, era ancora normale avere telefoni che stavano accesi una settimana. Esatto, e quindi è stato un po' abbandonato per queste caratteristiche. Adesso che il mercato degli smartphone è decisamente maturo, potrebbe essere la volta buona. Finalmente uno smartphone con un sistema operativo di cui ci si possa fidare. Esatto. Una veloce carrellata sui sistemi operativi che sono disponibili in questo momento, molto veloce perché non entriamo troppo nel dettaglio così al momento. Librem 5 viene venduto con una distribuzione sviluppata da Purism, che si chiama PureOS, se non sbaglio, derivata da Debian. Mentre Pinephone fino adesso era fondamentalmente, diciamo, senza sistema operativo, come possiamo dire, veniva venduto, in realtà è stato venduto a batch con alcuni sistemi operativi preinstallati, ma era un sistema, diciamo, per cominciare a far girare l'hardware. La cosa interessante di PinePhone è che può fare il boot da scheda SD e quindi si può anche cambiare al volo un sistema operativo con un altro, stile un po' fare avvio da USB con un PC. Ci sono anche i furbacchioni, scusate, che invece hanno pensato bene di fare un'applicazione che al boot può scegliere l'avvio di varie distribuzioni Linux. Adesso non so quante ce ne girano sul PinePhone, ma forse un 15, butto là. Non mi ricordo il numero, però fondamentalmente diciamo che le principali distribuzioni al momento che usabili su PinePhone sono Mobian. Mobian è un progetto nato da parte di sviluppatori Debian per poter inserire un po' più rapidamente le componenti che servono per il supporto hardware fondamentalmente, ma che ha come obiettivo quello di diventare una pure blend di Debian, quindi una distribuzione specifica per qualche obiettivo, però basata solo su cose presenti dentro a Debian. Al momento non è ancora tale, ma le parti aggiunte rispetto a Debian sono veramente poche, soprattutto relative all'hardware specifico. Un'altra distribuzione che diciamo è abbastanza, anzi diciamo che ultimamente è diventata un po' la distribuzione ufficiale, visto che dopo i batch di produzione di PinePhone cosiddetti Community Edition, in cui sono stati venduti con preinstallati vari sistemi operativi, è notizia di qualche pochi giorni fa, qualche è stata la settimana scorsa, che le prossime, diciamo, produzioni di PinePhone saranno venduti col sistema operativo di default, che è appunto Manjaro, che è una derivata di Arch Linux e è una delle distribuzioni disponibili sul PinePhone. Con varie interfacce, non dimentichiamo di bravo, segnalare. Raccontaci delle interfacce. Beh, allora, l'interfaccia che ho avuto modo di provare più intensamente è quella di Bosch, che è poi l'interfaccia di default anche di Librem 5, Librem 5, e devo dire che è l'interfaccia di GNOME, quindi e GNOME si è diciamo parallelizzato anche sul PinePhone, il che è molto comodo perché se uno usa una distribuzione Debian con GNOME 3 sul proprio desktop si ritroverà l'interfaccia papale, anzi molto più, secondo me, usabile dal punto di vista touch sul suo smartphone. E poi c'è KDE, quindi Plasma, che pare sia appunto l'interfaccia di default di Manjaro Plasma, che è stata scelta come distribuzione che verrà venduta da ora in poi, verrà installata da ora in poi su tutti i terminali PinePhone venduti appunto da oggi all'infinito. Non mi sovviene altro dal punto di vista dell'interfaccia. Ci sono altre interfacce minori, adesso ne è uscita appena una con XFCE, molto sperimentale, non l'ho provata sinceramente. Io ritengo comunque che dal punto di vista dell'usabilità la migliore sia decisamente Bosch, perché Plasma non mi convince proprio a livello di usabilità. A livello di fluidità, ok, sicuramente le Qt sono molto più fluide come librerie rispetto alle librerie GTK, però la disposizione dei menu è che è un po' farraginosa, non mi convince. Sì, sono d'accordo con te. L'interfaccia di Plasma sul mobile, non tanto della shell, per cui da parte, diciamo, di come dire, desktop, anche se desktop su un cellulare è un po' strano dirlo, ma proprio della, diciamo, dell'impostazione delle applicazioni, dell'usabilità delle applicazioni, che non mi convince certi menu, bottoni buttati sopra all'interfaccia, insomma, sono cose un po' strane. Sono d'accordo con te sul fatto che Bosch e le applicazioni GNOME siano abbastanza più usabili, nonostante abbiano altri problemi, un po' per la giovinezza anche dell'ambiente mobile su GTK, e anche le GTK stesse che hanno ancora devono essere un po' ottimizzate, senza tralasciare il fatto che il PinePhone comunque è un hardware, come diceva anche Elena, abbastanza scarsino, per cui le prestazioni sono quelle che sono, non è che ci si può aspettare più di tanto. Un'ultima distribuzione, in realtà non è una distribuzione ma che comunque è un'alternativa interessante, oltre ultime due, diciamo, oltre una versione di Android, per cui se uno vuole proprio un'esperienza smartphone standard, stanno lavorando anche in questo senso. Un'altra soluzione è Sailfish OS, che è stato portato anche sul PinePhone. Anche in questo caso un'esperienza mobile molto classica, nel senso che non è un'interfaccia che è pensata e studiata, le applicazioni pensate e studiate per essere usate su un cellulare, per cui insomma è questo. Invece la cosa interessante secondo me di Foch, come anche di Plasma, è che con un telefono come il PinePhone o come anche Librem 5, che è possibile collegare un monitor esterno attraverso l'USB-C e avere sul monitor esterno un'esperienza quasi desktop con le applicazioni che si adattano al nuovo formato, con mouse e tastiera annessi. Esatto. Chiaramente non è tutto rose e fiori, alcune cose funzionano, altre cose non funzionano. Esperienze di vita, vai. Esperienze di vita per quanto mi riguarda, dunque, oggi è una bella giornata, ho deciso di fare un giro in moto e provare il GPS. Ebbene sì, è stata un'esperienza traumatica, nel senso che ho fatto circa 10 km e mediamente il fix c'era a circa una quarantina di metri da me, quindi non sulla strada su cui ero, ma magari su una strada parallela, oppure addirittura su un'intersezione più avanti o più dietro, e spesso sganciava il segnale. Non ho capito ancora, e devo indagare, se lo sganciasse perché il segnale era debole, oppure perché proprio il programma di gestione del GPS, che mi risulta sia Modem Manager che lo gestisca, è ancora un po' acerbino, ecco, quindi lo sgancia ogni tanto. Ribadisco, ho usato Pure Maps, che si può scaricare tramite Flatpak sul PinePhone, e i risultati sono stati questi. Usando Maps, che è l'applicazione nativa che provate sul PinePhone, la cosa non migliora di molto, perché il fix comunque c'è ma non è preciso. Qui appunto è da indagare perché, ecco. Dimmi. Noi abbiamo indagato un pochettino sull'argomento dal punto di vista del sistema di localizzazione nativo di Mobian e degli altri sistemi Linux che girano su PinePhone. Funziona abbastanza la localizzazione basata sulle reti Wi-Fi visibili, che però ovviamente ha una precisione abbastanza bassa. Mentre il fix GPS è abbastanza problematico, nel senso capita proprio che a volte non lo prenda anche se vede dei satelliti. C'è Diego che ha fatto qualche prova in più invece con GPSD e gli altri programmi vecchio stile per gestire il GPS. Esatto, siccome non ho una SIM fino al momento dentro al cellulare, il problema è che Modem Manager fondamentalmente si rifiuta di funzionare senza una SIM, compreso il GPS, che di per sé in realtà funzionerebbe senza problemi. Quindi per bypassare il problema ho usato GPSD, che non uso ovviamente Modem Manager, si collega direttamente al GPS, e poi ho usato XGPS, che però nella versione diciamo standard non è adatto a essere usato sullo schermo del cellulare, quindi essendo scritto in Python ho fatto qualche semplice modifica per togliere qualche elemento e averlo che ci sta tranquillamente sullo schermo del cellulare. Come si diceva prima, sembra che il problema sia un problema che non abbia una ricezione del GPS molto potente. Effettivamente fa un po' fatica a prendere il fix. Capita delle volte che se è all'aperto, in teoria il cielo è libero, però prima di prendere il fix impiega anche qualche minuto. A parte questo, che non è poco, però per il resto è utilizzabile quando appunto prende il fix. Parliamo di qualche funzionalità più esotica riguardo a un telefono. Le telefonate. Che esperienze abbiamo avuto con le telefonate, Alberto? Ma non malaccio. Oggi ne ho ricevuta una verso mezzogiorno. Ora, ritengo di aver risposto in tempo, nel senso che probabilmente non sono passati forse 10-15 secondi dal momento in cui il cellulare si è svegliato dal torpore, e quindi mi sembra abbastanza buona. Come d'altronde viene detto su tutti i forum, ecco, il tempo, la latenza per cui da cui il modem si risveglia beccando il segnale del ponte che dice sono qua, c'è qualcuno che chiama questo numero, è intorno ai 15 secondi, ecco. Ricezioni, allora, l'altoparlante del Pinephone è l'hardware è a livello del costo del cellulare, che non abbiamo ancora detto essere attorno ai 200 euro, 230 euro. Per me non è molto molto fedele. Ora dipende molto anche dal tipo di codec che viene usato nelle chiamate audio. Non ho idea di che codec sia, ma probabilmente io l'interlocutore lo sento molto vattato, lo sento con una banda risicata. Per quanto riguarda la riproduzione invece altrettanto, cioè non so da cosa possa dipendere, tipicamente dall'hardware. Allora, dalla mia esperienza è probabilmente una questione di hardware, perché l'uscita cuffia per esempio ha una qualità molto buona, okay, anche per le telefonate, non solo per l'audio, diciamo, musica o cose del genere, ma anche per le telefonate la qualità non è per niente male. Mm-hmm. Poi vogliamo sapere anche Elena cosa ne pensa. Elena non ha mai provato a fare telefonate, perché Elena non telefona. Cosa sono queste cose esotiche? È come Macete che non messaggia. Ho provato a usarlo per ascoltare dell'audio online, però in situazioni in cui non si coglieva pienamente la qualità. Funzionava. Ok. Allora, io ho un paio di esperienze, nel senso che al momento ho concentrato il mio utilizzo su Mobian, nonostante abbia delle schedine, delle schede SD pronte da sostituire con altre distribuzioni, ma secondo me al momento Mobian è quella un pochino messa meglio dal punto di vista di usabilità e stabilità. La mia esperienza è che, a parte quello che già ha detto Alberto sulla qualità dell'audio, che è quella che è, la velocità di risposta sì è nell'ordine dei quei 15 secondi, diciamo che chi ti chiama deve aspettare almeno 3 squilli prima che tu sappia che ti sta chiamando. So però comunque che è in corso lo sviluppo di patch anche sul driver, sia sul driver del modem che sul firmware del modem, che anche dal punto di vista della parte di modem manager, per risolvere anche questo problema e per risolvere anche un altro problema che ci segnala Enrico dalla regia, a proposito del fatto che succede che gli SMS non vengano notificati in ricezione quando il telefono è in sospensione. Credo che questo problema sia collegato a tutto ancora il problema che c'è a riportare il modem in modalità sto funzionando quando esce dalla sospensione. Perché per esempio se il telefono è in sospensione e non arriva una chiamata e lo sblocco, ci vuole un po' prima che si stabilizzi e riprenda il segnale della rete cellulare. Poi funziona, però ci vuole un attimo, nel senso che se hai bisogno di fare una chiamata urgente e il telefono è bloccato, meglio se ti metti con calma da una parte e aspetti. Ho avuto anche modo di provare il traffico dati sempre su rete cellulare e diciamo che ho fatto un weekend fuori porta, per cui avevo a disposizione solo il traffico dati, e per tutto il weekend non ho avuto assolutamente nessun tipo di problema, nel senso che si collegava, mi faceva navigare. Poi non so se ho fatto qualcosa io o qualche aggiornamento che ha toccato qualcosa, qualche giorno dopo ho riprovato e non mi si è più collegato, però potrei avere anche toccato qualcosa io che non dovevo, devo essere sincero. Tra l'altro segnalo che funziona molto bene anche il tethering. Esatto, ho provato anche quello, sì. Ma molto bene, c'è un true output veramente alto, nel senso che ho toccato i 40 megabit, quindi notevole. E tra l'altro, se non vado errato, dovrebbe fare tethering anche via USB, ma non sono sicuro che ci sia un'interfaccia già pronta, diciamo, grafica per abilitarlo. Sarebbe da verificare. Per cui diciamo che come telefono di tutti i giorni forse non è ancora propriamente usabile, ancora bisogna aspettare ancora un po', lo sviluppo comunque è in corso. Sempre Enrico ci segnala un altro problema, che la sveglia non funziona quando il telefono è in stand by, nel senso, scusa, in sleep. Sì, è un problema serio se usi la sveglia per svegliarti la mattina, ne so qualcosa. È anche vero che ho avuto esperienze di telefoni Android commerciali la cui sveglia non funzionava se il telefono era per esempio spento, per cui va bene. Comunque sospetto che sia una cosa anche in quel caso software da sistemare. Parliamo di Telegram? Parliamo di software, esatto. Parliamo di applicazioni. Cosa c'è? Beh, io ascolta. No, io invece vorrei cominciare a parlare di un altro tasto, il tasto della webcam, o meglio della camera. La camera, se mi permettete, ha dei problemi sia hardware che software. Però non si può cavare sangue da una rapa, nel senso che, tornando a bomba, il costo del dispositivo è quello che è, quindi la telecamera frontale da 5 megapixel, scusate, posteriore da 5 megapixel, dà quello che probabilmente può dare. Ora, lo sviluppatore sta mettendo mano ancora una volta sui driver, la codifica del segnale che vede la camera è hardware, quindi lo fa chi fa la telecamera, ma l'interfaccia software con la telecamera bisogna ancora di qualche limatura, e quindi forse dovremo aspettarci un miglioramento dell'immagine. Segnalo anche che con Mobian non ci sono problemi di sorta, nel senso che vengono fuori delle fotografie accettabili, mentre che invece con l'interfaccia Plasma, con KDE Plasma, quindi con Plasma, invece c'è una specie di velo bianco, come d'altronde abbiamo potuto notare anche ieri sera su alcuni sample che ho fatto girare in rete, che rovina decisamente la fotografia. Ora, probabilmente, anzi sicuramente, è un problema software. Allora, io ho notato invece che probabilmente ci sono delle impostazioni della camera che influiscono sui risultati delle foto. Per esempio, ho notato che qualche volta, raramente ma ogni tanto capita, accendo la telecamera e c'è per esempio i colori un po' sfalsati, tipo tutto un po' verdolino, tutto un po' bluastro. Sì, quello è un problema nelle ultime versioni dell'applicazione delle foto, che al primo avvio sbarella qualcosa, non imposta qualcosa nella... È un baco. È da notare, nel senso, come workaround, se qualcuno capita che switchando la camera da posteriore a frontale e ritornando sulla camera posteriore, di solito torna a posto quei colori. Sì, sì. Per cui confermo. Mi viene da sospettare che probabilmente anche il programma, magari che non funziona con plasma, magari è semplicemente qualche regolazione che non viene fatta sulla telecamera. È probabile. C'è anche da dire che anche il driver stesso della camera è in via di sviluppo e dipende anche da magari anche da quale versione del driver la distribuzione in quel momento sta caricando. Certo. E anche ho notato nel tempo che è sufficiente una nuova versione, che è una cosa che magari fino al giorno prima non funzionava quasi per niente, improvvisamente comincia a funzionare, per cui basta anche dalla versione 0.4 alla versione 0.5 cambiano le cose in maniera anche sostenuta. Telegram, diciamo. Parliamo di software. Allora, Telegram funziona bene, cioè funziona, punto. Bene da vedere, le notifiche ovviamente non vengono notificate, quindi se il telefono è in suspend ciccia, come abbiamo visto prima gli SMS, come anche qualsiasi notifica proveniente da XMPP. Sugli SMS dipende, perché a volte, nel senso, dipende se il modem manager e il modem collaborano correttamente, perché può essere che ti notifichi, non è detto che non te le notifica quando vai in sleep. Sull'applicazione invece non c'è niente da fare, quando vai in sleep tra le varie cose spegni anche il wifi e il traffico dati, certo. E qualsiasi cosa, per cui spegni, punto. Per quanto riguarda XMPP e o Matrix, allora attualmente utilizzo il client che si chiama Chatty, Chatty mi sembra, e devo dire che grossissimi problemi non ce ne sono, sì, ancora un po' acerbino, è decisamente però acerbo, sì. Ecco, però ad esempio mi dicono dalla regia che Dino invece, a parte la visualizzazione, alcune visualizzazioni dei caratteri, quindi l'interfaccia un po', diciamo, oversize, funziona molto bene. Allora, io uso fondamentalmente Dino IM per XMPP, che è un client nato per il desktop, abbastanza funzionale. È pensato per non avere tutte le funzionalità possibili, ma avere solo il sottoinsieme di funzionalità che servono alla maggior parte delle persone. Su desktop funziona molto bene. Su cellulare funziona molto bene, tranne che per il dettaglio che non ci sta l'interfaccia nello schermo. Riesco a usarlo girando lo schermo tra verticale e orizzontale, e in un modo vedo alcune cose, nell'altro modo riesco a scrivere e bene o male funziona. Però c'è da dire che c'è già nel repository di Dino IM la versione che dovrebbe adattarsi correttamente agli schermi piccoli. Un'altra alternativa valida è Gajim, che nonostante i primi test evidenziassero anche in quel caso dei problemi di adattamento nello schermo, è possibile ridurre questi problemi, nel senso che Gajim è possibile configurarlo dicendogli di mantenere ogni finestra di chat in una finestra, ogni chat in una finestra separata, e in questo caso le finestre di chat si adattano correttamente alla dimensione dello schermo. Ci sono chiaramente alcune finestre di dialogo che non si adattano correttamente, come anche le chat multiutente, per cui le chat di gruppo, in realtà una parte della finestra, quella con diciamo l'elenco dei partecipanti e quindi anche alcuni bottoni in fondo a fianco al campo di input della chat, restano fuori schermo, però la finestra in realtà è utilizzabile, è possibile leggere e scrivere. Per cui è anche quella un'alternativa abbastanza valida. Chatty è abbastanza acerbo, Chatty si basa sulle librerie di Pidgin, per cui al momento, oltre a essere il client, diciamo l'applicazione per leggere gli SMS, supporta anche XMPP, supporta volendo anche Telegram, per cui è possibile usare Telegram attraverso chat invece che attraverso l'applicazione nativa, chiaramente con molte funzionalità in meno, e dovrebbe supportare anche Matrix, però credo che dipenda da che distribuzione è installata. Adesso le ho girate alcune ultimamente, e per cui non so più su che distro funziona cosa. Su Mobian che ho installato io mi supporta solo XMPP e Telegram. Credo su Manjaro era attivo anche il supporto a Matrix. C'è da dire che applicazioni Matrix anche funzionano in mobile, ce ne sono a bizzeffe, per cui quello è un problema, diciamo, relativo. Parliamo di invece chi ha un account Twitter e vuole visualizzare quello che visualizzava su un normale telefono con Android. C'è Cowbird, che è un'applicazione nativa, un client nativo che gira tranquillamente su Pinephone e gira anche bene, tra l'altro. Quindi chi avesse un account Twitter può comunque continuare a utilizzarlo utilizzando Cowbird. La controparte invece aperta, quindi federata, nonché Mastodon, si può tranquillamente utilizzare Tootle, che è appunto un client per Mastodon, quindi anche Mastodon, diciamo, non ha problemi come visualizzazione della history, del flow della history. Segnalo che invece se uno usa Friendical sull'interfaccia web usando Firefox funziona benissimo. Confermo. Invece dal punto di vista della riproduzione video, diciamo che c'è qualche problemino, nel senso che il lettore video di default, cioè Totem, se state usando Fosh, non riesce a riprodurre i video per una questione di compatibilità con lo stack grafico al momento. E anche se si forza la compatibilità con lo stack grafico, a quanto pare c'è un bug nel GTK per cui inverte due canali e i colori sono sballati. Stavamo provando alcune alternative, la migliore sembra essere installare VLC, perché sappiamo che VLC non solo riesce a leggere anche i fondi del caffè, ma riesce anche a girare sui fondi del caffè. Già, l'alternativa GTK sarebbe MPV. MPV non è tecnicamente GTK, MPV è a parte. Poi esiste Celluloid, che è un'applicazione GTK che usa MPV per leggere i video. MPV funziona. Quindi MPV funziona, bisogna lavorare un po' di più per farlo funzionare correttamente. C'è il problema che l'interfaccia, i tasti dell'interfaccia, la dimensione è spesso relativa alla dimensione della finestra e del video che è in riproduzione, per cui è anche possibile che siano sufficientemente piccoli da non essere schiacciabili, e per cui è un po' poco usabile alle volte. A proposito di usabilità, se uno utilizza un telefono, la prima cosa che lo rende usabile sono i contatti e il calendario, eventualmente sincronizzabili con Nextcloud. Anche qui non abbiamo nessun problema, perché nativamente l'interfaccia di GNOME lo fa. Non solo lo fa, ma lo fa anche bene, nel senso che importa contatti, calendario e quant'altro da Nextcloud in maniera automatica e trasparente. No, volevo parlare del Bluetooth, scusatemi. Ah, vai. Bluetooth funziona bene, nel senso che l'ho provato, di la verità, solo con delle cuffie Bluetooth e non ci sono problemi. Ho provato anche a fare il pairing con il mio smartwatch e lo fa. Il programma di gestione con lo smartwatch è un altro paio di maniche, perché nativamente non esiste niente ancora di compatibile che ha una compatibilità decente, ecco, a parte un'applicazione che gira sotto Sailfish, che io utilizzo normalmente per sincronizzare il mio orologio, ma non è ancora nativamente supportata da Pinephone. E poi vogliamo parlare dell'ultima cosa, cioè del problema di batteria, consumo, che purtroppo non c'è alto, nel senso che si arriva a malapena a fine giornata con un utilizzo medio-basso. Almeno io arrivo a fine giornata. Dipende, oggi. Dipende qual è il tuo concetto di utilizzo medio-basso. Però sì, è abbastanza scarsino. Sì, decisamente. Se non lo mandi in suspend e lo tieni acceso continuamente, non dura la batteria più di un paio d'ore. Segnalerei ancora un paio di programmi invece inattesi, cioè vantaggi del fatto di avere lo stesso sistema su desktop e su cellulare. Ho installato un paio di programmi che uso su desktop, in particolare RTXT, che è un editor editor di testo, ma pensato per Restructured Text o al limite Markdown con le preview in tempo reali, che funziona discretamente. E soprattutto Xurnal, che è un programma per prendere appunti sopra ai PDF. Permette ad esempio di firmare con una penna sopra un modulo che ti hanno mandato in PDF anziché doverlo stampare e riscannerizzare. E a parte il fatto che usando il touchscreen si deve firmare col dito anziché con la penna, funziona discretamente bene. L'altro programma, invece questo più mobile, veramente che è indispensabile installare, è una scelta tra Confi, il cui autore è qui presente nella registrazione, e ConfClerk, entrambi che servono per gestire i programmi delle conferenze. Quindi diciamo che di applicazioni magari l'ecosistema non è ampio, sicuramente l'ecosistema non è ampio tanto quanto quello di Android per esempio, ma il vantaggio è che le applicazioni desktop, quelle Linux standard, hanno la possibilità di essere eseguite anche sul pinofono. Alcune riescono ad adattarsi anche alla dimensione dello schermo per cui essere usabili, altre magari un po' meno. C'è da dire che, come si diceva, collegando un monitor esterno, mouse e tastiera, è possibile usare questi telefoni quasi come se fossero dei piccoli computer ARM, dei piccoli portatili, diciamo. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che probabilmente non tutti lo sanno, io l'ho scoperto di recente, nelle impostazioni c'è un'impostazione che fondamentalmente dice che tutte le finestre devono essere ingrandite del doppio. Questo perché altrimenti l'applicazione, diciamo, non pensata per il cellulare aperta sul iPhone avrebbe dei dettagli decisamente piccoli con delle scritte minuscole. La cosa interessante è che se si disabilita questa impostazione, a parte il fatto che ovviamente poi tutte le scritte diventano più piccole, però magicamente ci sta tutto nello schermo. Non è detto che uno debba voler usare sempre così, però qualche volta potrebbe far comodo. Esatto, perché lo schermo del pinofono è un 1440 per qualche cosa. Normalmente la shell gira con uno zoom del 200%, per cui in realtà le applicazioni vedono uno schermo della metà, ok? Esatto, sì, era una cosa del tipo 720x300 e poco. Chiudiamo con una veloce accenno alla compatibilità Android. A parte, come si diceva all'inizio, una distro Android, per cui Android vero e proprio che gira nativo sul telefonino, è in via di sviluppo anche un altro sistema che si chiama Nbox, che nasce da Canonical, nasce per Ubuntu Touch, che ci siamo dimenticati essere un'altra delle distribuzioni che è possibile far girare sul pinofono, diciamolo. Nbox, che fondamentalmente è un ambiente Android eseguito all'interno di un container. È un layer, sì. Esatto, e che è in via di sviluppo, per cui diciamo che la stabilità e la funzionalità è ancora tutta da far venire fuori. È comunque un qualcosa in più per chi volesse poi magari usare veramente un sistema del genere come cellulare. L'applicazione tal dei tali, di cui non facciamo nomi, che esiste solo per Android, a quel punto potrebbe essere possibile farla girare assieme alle applicazioni native per Linux. È una cosa interessante. No, io l'ho installato l'altro giorno e devo dire che per girare gira, però quando apri un'applicazione, ad esempio scaricata da F-Droid, il problema è che non vede al di là del layer di compatibilità. Ad esempio, ti faccio un esempio, l'applicazione fotocamera di Android non funziona, il Bluetooth da Android non funziona, anche la tastiera virtuale, non funziona, bisogna scaricarne una da F-Droid o bisogna mettere una tastiera con Bluetooth, con wireless collegata alla dock per poter digitare dei caratteri, quindi il problema è quello. Ok, con questo direi che potremo concludere questa puntata di Opencast. Vi ricordo che tutte le puntate di Opencast fino a questa, che è niente po' di meno che la numero 50, sono a disposizione sul nostro sito www.gl-como.it. Trovate tutte le puntate, trovate i link di quello che abbiamo parlato e tutte le vecchie puntate. Trovate il feed RSS se volete seguirci con un'applicazione di podcast magari dallo stesso Pinephone. E che dire, ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato stasera, ringrazio anche Enrico da dietro le quinte che ci stava aiutando con delle note mentre noi eravamo qua a chiacchierare, e diamo appuntamento alla prossima, non si sa quando e non si sa neanche perché né cosa, ma vedremo. Come Debian, uguale. Sì, esatto, prima o poi uscirà, quando è pronta. Quando sarà pronta, è pronta. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.